basta poco. Ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me. Tu vuoi quel graffio al cuore che anch'io fortemente vorrei. Oh, vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi seni accendersi poi come due piccoli vulcani. Sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te, c'è un bisogno d'amore, sai, non aspetta. È un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco. Siamo in fretta, no. Fuoco nel fuoco, le passioni tue e le mie, è quasi un gioco, sai, mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai. È un incontro d'anime, la notte sembra perfetta per consumare la vita. Io e te, c'ho un bisogno d'amore, sai, che non aspetta. È un'emozione sarà infinita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma bruciamo in fretta noi. Avvicinerò tutta la mia pelle al tuo calor latino, io ti sentirò. La storia è questa, la notte sembra perfetta così per consumare la vita. Io e te siamo fuoco nel fuoco, facciamo in fretta noi, yeah, yeah. Siamo fuoco nel fuoco noi.